La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua La Rosa Purpurea, il sabato del cinema su Radio 24, come sempre con tutte le novità in sala e molto molto altro, interviste, giochi, DVD, Blu-ray da vincere, insomma, piovono polpette cinematografiche a quest'ora su Radio 24. Cominciamo subito con una settimana pienissima, davvero piena di novità, di uscite, di cose molto interessanti, qualcuna anche meno, però insomma si sente che l'autunno è arrivato e al cinema il prodotto comincia a lievitare. A partire, per esempio, è uno dei possibili punti di partenza di questa settimana, da The Martian, Sopravvissuto, mi hanno messo un pezzettino in italiano davanti al titolo così per farlo capire meglio, di Ridley Scott, un film, come si diceva una volta, di fantascienza, cioè proprio quando insomma l'uomo sfida le forze del reale e forse anche dell'irreale, in questo caso l'uomo in questione è Matt Damon, che si trova in mezzo a una tempesta su Marte. Io ti garantisco che a un certo punto ti ritroverai nei casini. Pronti? Direi ci siamo. Questa è la mia fine. Comandante, Mark è morto. Dobbiamo andare! Quindi o lo accetti o ti dai da fare. Sarà un grosso shock per il mio equipaggio e per la NASA e per il mondo intero. Ma sono ancora vivo. Sorpresa! E allora, l'uomo contro tutto, solo contro tutto, l'equipaggio di una missione sul suolo di Marte, si trova in mezzo a una tempesta, il botanico di bordo, Whitney, colpito da alcuni detriti, viene dato per morto, e invece no, e invece dovrà cercare di cavarsela da solo per provare a tornare a casa. Un menù semplice, un menù visto, un menù direi quasi archetipo di una certa fantasia. Scienza, quella appunto del solo contro tutti, che però è nobilitato in questo caso da Ridley Scott, che torna su livelli importanti dopo qualche passaggio a vuoto, poi come sempre opinabile, ma insomma, tanto per ricordare il suo ultimo capitolo di fantascienza come Prometheus, qui le cose sembrano girare meglio, forse perché appunto la struttura del film è molto più individuabile, molto più leggibile, molto più semplice. Lo chiediamo a Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, hai assolutamente ragione, un Ridley Scott sui suoi livelli migliori. Sicuramente c'entra il fatto che c'è un libro molto solido alle spalle, quello di Andy Weir, L'uomo di Marte, che in Italia è edito da Newton Compton, che è fin troppo chiaro nella sua struttura, perché è un libro tra virgolette di divulgazione scientifica, perché utilizza le conoscenze di un nerd sulla scienza, sulla botanica, per raccontare una storia alla Robinson Crusoe. E dall'altra c'è anche l'intuizione semplice, non nuova, ma probabilmente rinnovata nell'approccio, che è quella di innervare un genere molto classico e molto, come dire, granitico come la fantascienza, non con la distopia di questi ultimi anni, ma con un'ironia scoperta. Ridley Scott ha l'intuizione geniale, secondo me semplice e geniale, di rovesciare alcune delle regole tenendosi tutte le altre. Una di queste è non mettere mai la disco music in un film di fantascienza, perché perdi epica. Ma se hai un Matt Damon in forma e se hai la capacità di raccontare anche la piccola follia che un Robinson Crusoe su Marte vive, e allora funziona anche la disco music, anzi funziona meglio. C'è anche un'ingenuità di fondo che sta sotto i migliori film di Ridley Scott, cioè quell'entusiasmo, quella voglia di raccontare una storia che è volutamente sopra le righe, anche se poi esce adesso The Martian e pochi giorni fa abbiamo scoperto che c'è l'acqua su Marte, quindi è quasi invecchiato, è un film di fantascienza che è quasi invecchiato, però ha questa capacità di raccontarti una favola come quella che si potrebbe raccontare al proprio figlio, utilizzando però tutti quanti i mezzi di un cinema straordinario: effetti speciali, costruzioni di scenografie imponenti, andandoci poi a mettere, come era per quanto riguarda per esempio l'Apollo, in quella iconografia della missione spaziale perduta con successo, nel senso che questa è la storia di un grande fallimento che diventa poi ovviamente un successo. Sembra incredibile che questo sia lo stesso cineasta che ha fatto Prometheus. Questo è un cineasta invece entusiasta, divertito, divertente, capace di usare la fantascienza come un percorso diverso. Probabilmente c'è anche il fatto che Prometheus era un progetto di Tony Scott, che chiaramente, vista anche la fine della sua vita, era in una situazione psicologica diversa, e Ridley ha voluto rifare Prometheus esattamente come voleva farlo il fratello, e questo probabilmente è un progetto molto più suo, quindi assolutamente da promuovere. È un film divertente. Ridley Scott l'avrebbe potuto fare anche 40 anni fa, addirittura prima di Blade Runner, l'ha fatto adesso e ci si diverte uguale. Passeranno 4 anni prima che la prossima missione mi raggiunga. Mi serve acqua per coltivare cibo su un pianeta dove non cresce niente. Abbiamo un messaggio in arrivo. Mein Gott. Mark Watney è ancora vivo. Alla faccia tua, Neil Armstrong. Di fame prima che riusciremo ad aiutarlo. So come salvare Mark Watney. Serve l'equipaggio dell'Hermes. Abbiamo molte probabilità di ucciderne uno o poche di ucciderne sei. La NASA ha respinto la missione. Se lo facciamo lo stesso. Qualunque cosa accada, dite al mondo che non ho mai smesso di combattere per tornare a casa. E allora, la fantascienza dell'uno contro tutti, che aveva già avuto molto successo recentemente con Gravity, per esempio, di Alfonso Cuarón, porta acqua al mulino anche del nuovo film di Ridley Scott nelle sale italiane, il sopravvissuto The Martian. A questo punto noi sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo, l'atmosfera si farà molto dura, entriamo nel ghetto di Los Angeles con Straight Outta Compton. La rosa purpurea. Ah, fuck the police. NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy Motherfucking E. Allora, note, parole, rime soprattutto, che sono andate oltre il brano musicale, oltre il successo, oltre il rap, sono diventate in quel caldissimo inizio di anni 90 sulle strade di Los Angeles e dintorni, sono diventate un inno di ribellione. Straight Outta Compton al cinema è la storia di alcuni gangster che sono diventati rapper, che hanno cambiato la storia di questo genere musicale, che hanno anche dato voce a una protesta sotterranea che scuoteva il ghetto di Los Angeles, che scuoteva i quartieri neri come Compton, per esempio, appunto, dopo le violenze della polizia perpetrate anche in maniera gratuita. Ricorderete il pestaggio di Rodney King, tanto per dirne uno, quello più famoso, quello più che ha dato più scandalo e più scalpore, anche per come sono andate poi a finire le cose a livello giudiziario. Erano dei ragazzi, ragazzini, Ice Cube per dirne uno, Dre oppure DJ Yella, ecco, erano dei ragazzini del ghetto, piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, piccole violenze e prepotenze quotidiane, però a un certo punto la musica li ha salvati, li ha tirati fuori, e loro non hanno trovato altro di meglio, e l'hanno fatto in maniera piuttosto efficace, che incarnare quella rabbia che covava in quei ghetti e che dare voce a quella gente. Tutto questo ora diventa un film con la regia di Gary Gray. Pensate, negli Stati Uniti 160 milioni di dollari di incasso. È un film, come dire, molto americano, che però il successo lo cerca anche da noi. Mi hanno detto che stai parecchio a casa di tua zia. Si sta bene sul divano? Ci vivo con la mia donna e il bambino. È tosta, bello. Ma che vuoi? Mica tutti possono essere come te. Come me, ormai sono tagliato fuori, Joe. Dove sono i soldi? Sei veramente senza pietà, bello. Voglio cambiare un po' di cose. Dove credi di andare? Stavo andando a casa mia. Quello è mio figlio! Senta, ora lei se ne va a casa o le giuro che la rovina. Vergogna! Non parli così a mia madre! Se avessi una possibilità di cambiare la situazione, la sfrutteresti? E allora, se avessi una possibilità, la possibilità, come dicevamo, è arrivata dalla musica. Boris, già in questo trailer c'è uno degli elementi su cui vale la pena discutere per questo film, un elemento estetico, cioè quello del doppiaggio, cioè di far arrivare un film di questo tipo che parla il linguaggio del ghetto, tradurlo chiaramente significa per forza edulcorarlo, senti bello, vedi bello, insomma, ecco, manca già qualcosa. Fortunatamente le canzoni sono in originale, però, come dire, molto era nel linguaggio, anche quel senso di ribellione che pervadeva quella storia e questo film. Mi verrebbe da dire io, nel senso che chiaramente quello che dici tu è assolutamente giusto. Nel momento in cui tu prendi un mondo così particolare come quello che viene raccontato in questo film e prendi un'esperienza così particolare come quella della NWA e la traduci in italiano, la traduci in un gergo che non è quello di quei ghetti, fai perdere molto della potenza del film, ed è un peccato perché il film in sé è molto interessante. Non mi stupisce che abbia fatto 160 milioni negli Stati Uniti, perché racconta il cuore nero di un paese, e quando parlo di cuore nero parlo sia di un cuore afroamericano, ma anche di un cuore oscuro, di un confine labilissimo che noi non conosciamo tra musica e gangsterismo, di un modo di raccontarsi attraverso rime, attraverso note, per andare a fondo nel disagio di un ceto sociale, di una popolazione che è sempre rimasta ai margini. Rimane comunque interessante quello che viene raccontato, soprattutto a livello antropologico più che cinematografico. Rimane interessante andare a pescare nella vita di questi personaggi, che poi sono diventati alcuni di loro fondamentali nel panorama musicale. Non a caso il film avrà un sequel che racconterà la storia, forse è da noi più conosciuta, di Snoop Dogg e Tupac Amaru, però chiaramente bisogna avere delle avvertenze. Uno è che vi deve piacere quel tipo di musica e dovete essere educati a quel tipo di musica, dovete anche essere educati a quel tipo di personaggi. E la seconda è cercare di entrare nel pensare americano, nell'American way of life, non quella del sogno americano ma quella dell'incubo americano. La regia è molto funzionale, si mette al servizio di un immaginario, lo fa piuttosto bene, lo fa con degli attori che inevitabilmente sono assolutamente utili alla causa, perché fanno parte di quel mondo. Quindi andatelo a vedere, però se trovate una copia in lingua originale aggredite quella, perché troverete un altro film, completamente un altro film. E allora le note rap di Straight Out Compton nei cinema italiani. Pronti a giocare, pronti a vincere i nostri favolosi film questa settimana, un bellissimo Blu-ray. E allora, ascoltate questa clip. È incredibile che tu non capisca perché ci serve. Tony, forse non è il momento migliore. Ah sì? Ti metti pancia all'aria ogni volta che qualcuno prova a ringhiare? Solo quando crea un robot assassino. Non è vero! E allora, di che film si tratta? Titolo, il vostro indirizzo, le vostre generalità, come si diceva una volta, ai posti di blocco, perché dobbiamo provare a regalarvi un paio di copie di questo film, più tardi una nuova possibilità. Parliamo di cinema italiano nelle sale, in questo fine settimana arriva anche Io e Lei, un film interessante, firmato Maria Sole Tognazzi con Margherita Bui e Sabrina Ferilli, strana coppia al femminile. Questa cosa che io sto insieme a Marina, a te ti imbarazza ancora? Sarà pure normale che uno si stranisce perché il padre si mette con una ragazzina e la madre si mette con una donna. Io non ho mai amato una donna prima di te. Non ci ho mai neanche pensato. Sei stata per tutta la vita la moglie da Sergio, la madre di Bernardo. Basta. Goditi un pochino sta libertà che c'hai. Ho incontrato una persona. Posso sapere da quanto tempo mi racconti male? Non puoi stare così. Perché come sto? Come una che le manca un pezzo. Io ho bisogno di capire. Beh, diamo la puntata e siamo indietro, eh? Vedi, lascio sta, questo è il condizionatore. E allora, le avete sentite alcune dei momenti, delle battute, degli scambi del film di questa che ho definito appunto una strana coppia, Margherita Bu e Sabrina Ferilli, il personaggio della Ferilli, come dire, ex attrice che ha sempre saputo di essere lesbica ma ha dovuto tenere le cose per sé per stare dentro quel sistema, invece Federica scopre l'amore omosessuale in età matura ma non si sente lesbica invece, e il film raccoglie questi due sentimenti, questa storia d'amore e questo viaggio verso la realizzazione di se stesse guardandosi dentro invece che guardare fuori. Boris, viene in mente subito chiaramente un po', anche se non c'entra in quel caso forse l'omosessualità, però molto Thelma e Louise in questo senso, cioè il viaggio di due donne che guardandosi negli occhi trovano la forza per andare avanti contro gli stereotipi, però devo dire anche interessante la riuscita dell'assortimento del cast femminile, devo dire particolarmente riuscita secondo me il ruolo di Sabrina Ferilli. Sono assolutamente d'accordo e devo dire che il bello di confrontarsi con il cinema è proprio che non avevo mai pensato a Thelma e Louise, ma c'è uno spirito profondo che hai assolutamente ragione, va a pescare proprio in quel immaginario femminile, soprattutto in quell'immaginario a cui noi non siamo abituati, di donne indipendenti, perché La forza di Io e Lei di Maria Sole Dognazzi, che è un gran bel film, sta nel fatto che racconta una storia di due lesbiche, ma non racconta un film a tematica lesbica. Può sembrare un paradosso, ma è proprio così. A un certo punto, ed è la grande bravura, il grande talento della regista, tu stai di fronte a una storia d'amore in cui, come spesso accade, c'è qualcuno che ha una forte identità, che ha assunto quell'identità in sé, ha avuto il coraggio di raccontare se stessa come si sente e non come la voleva la società, e un'altra persona che ha tutto il diritto, alla stessa maniera, di vivere le sue incertezze, vivere le sue ambiguità, senza che il mondo debba pretendere che lei faccia la scelta giusta, né la donna che ama né il resto della società. Non ero molto convinto che potesse esserci un buon assortimento tra Margherita Bu e Sabrina Ferilli, e per fortuna mi sbagliavo, perché invece c'è da una parte l'inquietudine, anche quel modo rarefatto di essere al cinema di Margherita Bu, che si incontra con l'aggressività, molto alla grande bellezza, di Sabrina Ferilli. È una storia d'amore, Io e Lei, è una storia di definizione di sé che va ben oltre le scelte sessuali. Racconta, e questo è un miracolo per il cinema italiano, due donne che vanno oltre le convinzioni della società e vanno oltre le convenzioni che loro stesse hanno dovuto vivere. Il tutto in una regia elegante, molto delicata, molto sensibile, come anche la sceneggiatrice e la sceneggiatura di Marciano e Cotroneo. Ed è davvero un film che ha una sua leggerezza profonda, una sua grande sensibilità e la capacità di andare ben oltre gli stessi stereotipi che il titolo Io e Lei, che non è scelto a caso, quell'io che è indefinito e lei che invece a livello di genere è molto definito, che vuole raccontare, cioè vuole raccontare due donne. Il cinema di solito racconta l'universo femminile con una banalità sconcertante, in particolare il cinema italiano, e Maria Sole Dognazzi invece ci porta altrove, ci porta a scoprire veramente un'altra metà del cielo, ma che è un'altra metà ancora rispetto a quella a cui siamo abituati. E allora, con la bella sorpresa Io e Lei, noi diamo la linea alla regia. Fra poco torniamo qui però, perché c'è Gabriele Muccino che ci deve raccontare Padri e La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qui, La Rosa Purpurea, terza parte della nostra trasmissione. Come promesso poco fa, è con noi, adesso sarà con noi fra poco, Gabriele Muccino, perché arriva nei cinema italiani in questa settimana il suo nuovo film, il suo quarto film americano, Padri e Figlie, Fathers and Daughters, film che vede un cast, insomma, tutte stelle: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, la piccola Quenzané Wallis, Diane Kruger, Jane Fonda, insomma, come dire, locandina larga per farceli stare tutti, una storia di sentimento, di rapporti, come del resto spiega perfettamente il titolo, fra un padre e una figlia, fra quello che vorrebbe essere, quello che può essere, come tante volte la vita insomma ci mette di fronte. La storia di Jake, un romanziere, uno scrittore di grande successo, appunto Russell Crowe, vincitore di un Pulitzer, di una mancanza improvvisa, drammatica, lacerante, quella della moglie in un incidente stradale, e di una figlia piccola, Katie, da crescere da solo. A volte è una sfida più grande di quello che ci si sente, di quanto ci si senta, e poi anche la malattia, un disturbo serio, mentale, che cozza con la sua voglia di scrivere, di andare avanti, di migliorare la sua situazione e quella appunto della bambina. Una malattia che va curata, e in quell'interregno la bambina affidata alla famiglia degli zii, nella quale chiaramente cresceranno alcuni pensieri che non sto a svelarvi per non dirvi troppo del film, ma che governeranno poi le relazioni fra tutti i protagonisti. E poi chiaramente binario parallelo quello della bambina Katie diventata grande, diventata Amanda Seyfried, e alle prese con la realizzazione di sé, che deve passare attraverso quello che è il suo passato, il suo vissuto, come a dire che siamo sempre tutti il prodotto della nostra infanzia e di quello che abbiamo vissuto e sentito durante i primi anni della nostra vita. Principesse. Sì, esatto. Una principessa balla proprio così. Si chiama valzer. E quando sarai più grande, ti insegnerò a ballarlo. Quindi, se io fossi una principessa, un giorno incontrerai un principe azzurro? Sì, sì, sì, certo. Quando? Non lo so quando. Quando sarà il momento giusto. E come si chiamerà? Non lo so che nome avrà adesso. Principe, vattene a pesca. Non lo so che nome avrà adesso. Gabriele Muccino, in collegamento telefonico qui alla Rosa Purpurea. Ciao Gabriele, grazie. Ciao, per aver accettato il nostro invito, bentornato. Grazie mille. Allora Gabriele, da dove partiamo? Partiamo per esempio da qualcuno ha scritto: preparati i fazzoletti, no? Effettivamente sì, ci si commuove davvero molto, però voglio partire da qui. Tu ti sei specializzato ormai, è proprio la tua matrice quella di raccontare queste grandi storie di rapporti familiari, di legami che vengono spezzati spesso da fattori esterni, e però a mio modo di vedere questo film segna un passo in avanti nella tua filmografia, perché segna anche, come dire, un passo verso il genere melò, il genere quello degli anni 50-60 americani, quel genere straordinario che aveva in King Vidor, a volte in Robert Wise, i grandi registi. E questo lo fai perché secondo me sei arrivato a un livello di asciuttezza nel racconto sembrerebbe stridere, no, con l'emozione. In realtà non è così. Questo film è molto compatto e le emozioni sgorgano ancora di più di quello che ci si poteva aspettare. Sì, no, è vero, il riferimento di questo film è comunque il genere esplorato grandiosamente dal cinema americano degli anni 70, in film che non avevano paure o insicurezze nel raccontare la vita com'era. E, in più si aggiunge a questo la mia esperienza di regista, che sicuramente fa la differenza poi, perché comunque ho fatto tante cose e anche ho anche avuto la possibilità eccezionale di vedere come i miei film parlavano al mondo, perché comunque sai, è un conto parlare al tuo pubblico, è un conto è vedere come la tua sensibilità si relaziona quando il pubblico è indiano, cinese, è giapponese, è sudamericano. Perché poi questo è fare film in America, di fatto, cioè la famosa Hollywood, che poi ha mille declinazioni, per cui non si può dire Hollywood e hai definito l'intero pacchetto, è molto più variegato il sistema, però di fatto lavorare lì mi permette di raggiungere un pubblico enorme, me l'ha permesso in passato sicuramente, che mi ha fatto anche confrontare il mio modo di raccontarmi e anche prendere coraggio forse ulteriore nel pensare che forse effettivamente la mia non eccezionalità come uomo fosse la chiave per raccontare piccoli eroi che però fossero allo stesso tempo universali, perché ho messo il servizio della mia normalità, mettiamola così, che vivo comunque da uomo normale, al servizio della mia regia, che sicuramente ha fatto un passo importante, forse non voglio esagerare, però ho fatto delle cose che nessun altro prima era riuscito a compiere, perché fare comunque 4 film in quel sistema e avere anche un larghissimo o largo successo planetario è un'esperienza che mi ha fatto crescere moltissimo, imparare moltissimo, riconoscere moltissimo ancora quanto c'è da imparare, poi, perché poi di fatto più si cresce più si capisce che si deve ancora crescere molto, e questo vale anche per la vita, non solo per la professione. Certamente. Ecco, Gabriele, qui ti sei cimentato con una sceneggiatura di Brad Dash, e ti volevo chiedere quanto ha contato in questo processo, nella riuscita di questo film, lavorare e incontrare quasi, come dire, un codice di comunicazione comune in una sceneggiatura scritta da un altro. Prima la prima fase è stata quella di dare a lui le mie note, si chiamano note, proprio la reale traduzione è note, proprio, cioè, note sulla sceneggiatura che dai come regista allo sceneggiatore, perché lui la modifichi e la porti sempre più vicino a quello che tu pensi sia necessario. E poi c'è un momento che è più o meno le ultime 4 settimane di preparazione prima delle riprese, in cui io quasi sempre, devo dire, prendo il sopravvento in qualche modo e faccio a modo mio, cioè metto tutto quello che ho nella pancia, lo metto sulle pagine della sceneggiatura fisicamente, proprio riscrivendo delle scene tout court, da capo, o migliorando piccoli dialoghi, perché devo sempre sentire che la sceneggiatura comunque è una seconda pelle in qualche modo, è proprio mi corrisponde fino in fondo. E in questo caso possibilmente sono riuscito a fare ancora di più un film personale, partendo da una sceneggiatura che non era scritta da me né concepita da me, perché anche il concetto del film è molto molto interessante e singolare, e mi ha attratto moltissimo sia il concetto che la struttura del film. Però in questa struttura sono riuscito ad abitare letteralmente e a far abitare tutta la mia esperienza immaginativa, di messa in scena e di costruzione di quella emotività che non è urlata, come tu prima un po' hai detto, ma è costruita sulla somma degli avvenimenti che avvengono nel film, cioè la somma di quello che succede nel film pian piano crea una sorta di rottura della cateratta, che è proprio è questa onda che cresce invisibile, ma che poi esplode in spesso, non sempre poi, ma spesso in molti spettatori esplode nella necessità umana e naturale di piangere. Il pianto è uno sfogo necessario, perché evidentemente questo film tocca delle corde molto profonde, anche nascoste, credo, del nostro subconscio e della nostra crescita e della nostra formazione. Perché è, come tu hai detto, è la storia di una ragazza di 25 anni, Amanda Seyfried, alle prese con l'amore, con la vita, con le difficoltà, con la sua mancanza cronica di questo padre assente, e di fatto lei è il risultato di quella bambina che noi conosceremo e conosciamo all'inizio del film, figlia di Russell Crowe, padre eccezionale, ma in qualche modo incapace di essere il padre perfetto che lui vorrebbe essere. Ma questo però, Gabriele, anche a causa della società che gli sta intorno, perché il personaggio di Russell Crowe è straordinario. Tra l'altro io ho avuto la fortuna di vedere il film in lingua originale, Russell Crowe è straordinario in questo film, però è anche vero che il tuo film racconta anche che quando sei debole guai se ti arriva una mano da qualcuno, cioè il momento in cui la società ti schiaccia con un piede in testa. Questo l'ho sperimentato anche io forse nella mia vita. Quando inciampi è il momento in cui tutto ti crolla addosso, pensi di essere invulnerabile, infallibile, ma appena c'è un momento di debolezza si crea una sorta di vuoto, rimangono vicino a te le persone che veramente ti amano, quelli sono i momenti della vita che poi sono necessari anche a capire chi è veramente nel tuo cuore e deve starci e restarci, e chi invece non c'è mai stato, perché la vita è piena anche di illusioni che ci facciamo o che ci fanno vivere, ma nei momenti difficili si fanno i conti con cosa abbiamo costruito, con chi abbiamo vicino e con chi siamo veramente. Gabriele, grazie davvero per essere stato qui con noi alla Rosa Purpura a raccontarci Padri e Figlie, il tuo nuovo film nei cinema italiani, un film che noi consigliamo davvero di andare a vedere. Grazie, grazie ancora. Ciao, grazie. E allora, Gabriele Muccino alla Rosa Purpurea per Padri e Figlie, e noi invece giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Non mi tiro mai indietro davanti a una sfida onesta. Ah, davvero? Ci siamo. Fisica. Bene, allora se lo sollevo io regnerò su Asgard? Sì, certo. Probabilmente no. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo, provate a via la Rosa Purpurea @radio24.it, ovviamente il nostro indirizzo di posta elettronica, provate a vincere uno dei due Blu-ray che sono lì a vostra disposizione, che sveleremo la prossima settimana. Adesso, linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme con l'ultimo film in uscita, appuntamento con la... Benvenuti, tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30, con me c'è Carlo Genta, Pierluigi Pardo, ancora tu, ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, facciamo un programma più serio. Molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. Po' meno? Po' meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presento La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, il rush finale della Rosa Purpurea, fra poco tutto il cinema che c'è da vedere in casa, la soluzione del game della scorsa settimana, le segnalazioni TV, però prima un ultimo film di quelli che sono arrivati al cinema in questo weekend, una commedia che si intitola Appuntamento con l'amore, che vi segnaliamo perché nel cast tra gli altri c'è Miles Teller, lo ricorderete, il giovane protagonista di Whiplash, uno dei film rivelazione della scorsa stagione. Insieme alla bellissima Annaleigh Tipton. Sentiamo la clip. Che cosa mi sta succedendo? L'anno scorso ero la fidanzata di Chris, adesso me ne sto tutto il giorno a casa in mutande, non sono il qualcosa di qualcuno, sto andando indietro, sto facendo come Benjamin Button. Magari è il momento per una notte via. Niente drink, niente cena, sesso punto. È stato bello fare sesso con te. Ah, vorrei poter dire lo stesso. Devi fare qualcosa, non posso restare qui con lui. Te ne rendi conto, è una tragedia. Siamo intrappolati. E quando la neve si sarà sciolta sarai sparita. Sì, sparita nel nulla. Usiamo questo tempo per essere sinceri l'uno con l'altra, per darci consigli, farci critiche costruttive. Su, forza, sentiamo. Ok. La storia della luce spenta, me lo spieghi che cazzo è? Non ci posso credere che mi trascinerò fino a Brooklyn per farmi una sveltina. Sai che non ti sei disconnessa? Era alla TV. E allora, un film tanto che segna l'esordio alla regia di un figlio d'arte, Max Nichols, figlio di papà Mike Nichols, e quando uno c'ha quel nome lì, anzi quel cognome, la commedia bisogna che la sappia fare. Poi interessante, brillante, leggero, come commedia generazionale, che mette di fronte due ragazzi in una situazione dove è importante anche la recitazione, perché per tre quarti di film i due si muovono praticamente da soli in una stanza. Il plot è quello di questa coppia che vive a Brooklyn, che si incontra per caso dopo essersi incontrati in una chat per una notte a tutto sesso, ma poi la grande nevicata blocca tutto e i due saranno costretti a vivere due giorni insieme e quindi in qualche modo a relazionarsi. Boris, ingredienti tutti piuttosto interessanti, risultato? Il risultato difficile da giudicare, o forse facilissimo in verità, nel senso che Max Nichols ci dice che il talento in qualche modo si eredita, ma forse l'esperienza inevitabilmente molto meno. E perché Appuntamento con l'amore ci mostra due bravi attori, ci mostra un soggetto molto intelligente, non originalissimo ma molto intelligente, questa neve che blocca due amanti occasionali e li costringe a riflettere su quello che è successo e su cui forse non avrebbero voluto semplicemente dire una parola, perché semplicemente si erano goduti una sana notte di amore, di sentimento, di fisicità. E tutto parte benissimo, perché appunto non si sente nemmeno il peso di questo racconto a due, di questi due attori con una non grande esperienza ma un buon talento per reggersi l'un l'altro in un film non facile, perché come sappiamo è difficile che un'unità di luogo e solo due persone riescano a creare un film. E quindi all'inizio hai l'impressione che ci sia qualcosa di estremamente interessante, che ci sia qualcosa di estremamente motivante nel vedere Appuntamento con l'amore. Poi Max Nichols, secondo me, ha talmente tanto introiettato la bravura del padre nel rispettare e sfruttare le regole della romantic comedy che invece ne rimane imprigionato. Dopo un inizio molto interessante comincia a seguire quelle regole molto più pedissequamente fino a un buon colpo di scena finale, e in qualche modo è come se quella neve che blocca i due dentro l'appartamento blocchi pure lui, non riesce a far fare il salto di qualità a quella che rimane una rom-com che si banalizza molto andando avanti, al pregio di essere breve e quindi di non slabrarsi troppo nella narrazione, ma è veramente l'impressione che aveva in mano questo esordiente, ed è esordiente anche lo sceneggiatore, e forse qui troviamo l'inghippo, aveva in mano qualcosa di estremamente interessante, estremamente fertile, e lui ci ha cresciuto, ci ha innaffiato una piccola piantina che si è venuta fuori molto carina, però un po' debole, un po' fragile. Probabilmente questo regista sarà più di un figlio d'arte. Qui sembra aver copiato il padre dopo una buona idea di partenza, e non sembra averlo fatto benissimo. Quindi è un film che raggiunge la sufficienza molto molto a stento, ecco. E alla fine ci ritroviamo per le mani una commedia romantica come ce ne sono tante, pur essendo partita in maniera completamente diversa. E allora grazie Boris anche per questa settimana, per averci raccontato la tua visione di tutto il cinema che c'è. Noi ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, dall'attualità cinematografica nelle sale, tanta abbondante, interessante anche in questo fine settimana, noi andiamo a risolvere il game della scorsa settimana, andiamo a raccontare qual era il film misterioso con il quale vi siete cimentati. A volte la mia eterna esistenza spirituale mi pesa, vorrei sentire un peso dentro di me, vorrei poter dire ora, ora e non più da sempre, in eterno. Invece di sì, amen. Il vostro tasso di cinefilia mi ha soddisfatto questa settimana. Molti hanno partecipato, molti hanno indovinato. Si trattava del Cielo sopra Berlino di Wim Wenders. Ci abbiamo giocato la settimana scorsa perché è in uscita una nuova versione restaurata del film in un video, ed è proprio quella che regaliamo ai nostri due ascoltatori più veloci e più bravi di tutti, ovvero Andrea Santamaria di Genova e Mauro Stroppa di Roma. Saranno loro due a ricevere il DVD di Il Cielo sopra Berlino, che ci facciamo raccontare come sempre dagli amici di Film TV e da Giulio San Giorgio, che è qui con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Dopo essere stati in coda all'entrata del Capranichetta per vederlo insieme a Margherita Bui e Nanni Moretti durante la visione di mia madre, possiamo gustarci Il Cielo sopra Berlino in una nuova curatissima versione Blu-ray targata a Ripley Homes Video, che già a febbraio aveva portato il film al cinema insieme a Nexo Digital. Una favola metafisica su una città ancora divisa, Berlino, e un amore forse impossibile possibile tra carne e spirito in un film che lega bianco e nero e colore, due angeli e una sinfonia della città e un senso soffocante diffuso di incomunicabilità e tanto romanticismo. Uno degli apici di Wenders, scritto come alle origini da Peter Hanke, tra gli extra abbiamo il commento di Wenders e Peter Falk, scene tagliate e commentate, insomma un oggetto da avere per ogni cinefilo. Per quanto concerne le segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana, Giulio, partiamo da lunedì 5 ottobre con Iris, che alle 21 mette in onda Revolutionary Road di Sam Mendes. Sì, siamo nel 1955, una coppia borghese nella provincia americana, le geometrie e i colori, la patina quindi del benessere in ogni elegantissima immagine di questo film, e due attori che mettono in scena un pacato e violentissimo inferno rosa, un girone di ricca, compita e lancinante sofferenza e desideri inespressi. Sam Mendes, regista decisamente eclettico, trova la giusta misura per adattare quello che è il capolavoro letterario di Richard Yates, autore in vita troppo poco apprezzato e stimato, e lo fa con l'acuto di due grandissimi attori, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, insieme 11 anni dopo Titanic. Appuntamento quindi con Revolutionary Road lunedì 5 ottobre su Iris alle 21, mentre mercoledì 7 ottobre la 7D programma alle 22:40 Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen. Sì, Woody Allen e Diane Keaton sono due coniugi, lei crede che il vicino abbia ucciso la moglie, comincia l'indagine. Le premesse e i modi sono quelli della commedia giallo-rosa, colori sui quali Allen pennella una ronda leggera e leggiadra di citazioni, battute e gag irresistibili, ma quel che resta è qualcosa di veramente più profondo, lo scandaglio nei desideri, nelle frustrazioni di una coppia a un passo dalla senilità, divertente, spassoso e veramente molto intelligente. E quindi alle 22:40 di mercoledì 7 ottobre l'appuntamento con Manhattan Murder Mystery di Woody Allen. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata, della nostra trasmissione. Grazie per averci seguito. Appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24 alle 18 del sabato, come sempre, per raccontarvi tutto il cinema che c'è. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24.